Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking sui 102.2 di RSD, con me Alvisi, in compagnia, una graditissima compagnia, Ferdinando. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, ricominciamo come da usi e costumi, ossia una puntata per un autore ed un libro. Ci siamo dati un po' alla pazza gioia, forti del numero di interviste realizzate e di conoscenze fatte ai Festival della Letteratura di Mantova e a Pordenone Legge. Ora, ancora basandoci su quel materiale, ma andiamo a esplicitare un po' alcune delle opere che a noi sono più piaciute. E tra queste torniamo all'antico, un autore alla volta. Oggi abbiamo con noi Emanuele Trevi, abbiamo con noi figurativamente ma poi anche in intervista. Allora, Emanuele Trevi, adesso parleremo brevemente di chi è, ma credo non abbia bisogno di grosse presentazioni perché un autore del suo calibro di solito non ne ha. Comunque ha recentemente scritto il libro della Gioia Perpetua, edito da Rizzoli. Da Rizzoli, sì. E noi dove lo abbiamo incontrato? Noi l'abbiamo incontrato a Pordenone, è stato molto gentile, ci ha rilasciato una lunga intervista che poi avrete la possibilità di ascoltare. Emanuele Trevi, che mi nasce critico letterario. Esattamente. E mi diventa scrittore. Emanuele Trevi, tra l'altro, dobbiamo dire figlio d'arte in qualche modo, non figlio d'arte letterariamente parlando, ma figlio di un noto psicanalista italiano che è Mario Trevi. Infatti Emanuele Trevi scriverà anche un libretto proprio su un dialogo tra lui e suo padre su temi di psicoanalisi, che io personalmente mi sento di consigliare. Consigliamo volentieri. Beh, poi si occupa di varie cose. Come dicevi tu giustamente, nasce critico letterario, pubblica diverse interviste, dialoghi e, ad esempio, io me lo ricordo per aver scritto l'introduzione a Pinocchio. E Ecco, questo. scusate se è poco l'introduzione a Questo è, voglio Pinocchio. dire, sì, ha fatto molti studi sulla fabola. Per esempio, è uscito anche per le sezioni per l'uso del lupo, per esempio, quindi effettivamente uno studio sulla fabola. E la sua attività di critico letterario poi sfocia nell'attività di romanziere, anche se romanziere un po' atipico, perché sia il suo primo libro che quest'ultimo sono un po' dei romanzi, ma anche non romanzi. Adesso avremo modo di parlarne più diffusamente dopo. Però qui si nota effettivamente l'amore per la letteratura, ma soprattutto anche per la critica letteraria, perché arrivato alla prova letteraria superiore, quindi scrivere un romanzo, Trevi si inventa un miscuglio di generi. Esattamente, poi questo romanzo in particolare è ampiamente, diciamo, autobiografico perché? Perché diciamo, il romanzo prende le mosse da un quaderno o un diario che lo stesso Trevi è in prima persona il protagonista del romanzo e Sì. si imbatte su questo quaderno, questo diario intitolato Il libro di Clara e Ricky. Che cos'è questo libro di Clara e Ricky? E sostanzialmente è il diario di una bambina di 8 anni, che però è colmo di significato. E una cosa bella è che alla fine del libro, Il libro della gioia perpetua, trovate la riproposizione del libro di Clara e Ricky. Quindi E questa che cos'è? cosa esiste. Sì, è vero, esatto. È stata anche una bella intuizione dell'editore o dell'autore in questo caso. E che cos'è questo libricino, questo diario? È un vero diario scritto appunto quando era bimba da Chiara Camberale, che è la moglie di Emanuele Trevi. Quindi lui ha trovato, è incappato. Noi ce lo immaginiamo in vestaglia la sera, incappare, inciampare su questo diario di questa bambina di 8 anni, leggerlo, rimanere stupito. Lui ha detto in più interviste che è rimasto veramente sorpreso dalla qualità letteraria proprio di questo diario, soprattutto considerato il fatto che è stato scritto da una bambina piccola. Decide di iniziare da quello una narrazione più ampia. La moglie lo supporta in tutto questo, e questo diventa poi il nucleo centrale di un romanzo. E qui, come dicevamo prima, il gioco fra ciò che è reale e ciò che non lo è all'interno di un romanzo, per cui il romanzo è fittizio, però il protagonista è veramente Trevi con il suo nome e cognome, e il diario di sua moglie però è reale. Se possiamo anche aggiungere una nota di colore, possiamo anche dire che noi Chiara Gamberale la sentiamo particolarmente vicina perché, beh, una persona, non la conosco, però dall'idea che mi sono fatto leggendo qualcosa è assolutamente poliedrica e tra le varie altre occupazioni che ha, quindi Chiara Gamberale è scrittrice, è stata conduttrice televisiva e anche conduttrice radiofonica, e questo Quindi un po' ci una inorgoglisce. collega. Esatto, in qualche modo sì. Una collega. La ricordiamo tra l'altro per uno degli ultimi libri che consigliamo anche, La zona cieca. Un bel libro di Chiara Gamberale. Benissimo, allora, si diceva prima, abbiamo conosciuto o quantomeno Ferdinando, che è qui alla mia sinistra, e Presente. Matteo hanno conosciuto Emanuele Trevi in quel di Pordenone Legge, dove era presente per appunto far conoscere il suo Il suo libro ultimo libro, ai convenuti. ai pordenonesi e non. Esatto, è stato assolutamente gentile e gioviale Moltissimo, e lo ci ha permesso ringraziamo. di realizzare un'intervista che andiamo tosto a farvi sentire. Non prima di ricordarvi che l'intervista per intero può essere visionata su www.bookbaratra.it. bloverbooking.wordpress.com. Però scusami Alvise, io sono un utente che non ha molta familiarità con l'inglese e con la tecnologia. Come si scrive bloverbooking. Eccetera? Che meraviglia. Allora, per i non anglofoni, citando qualcuno che è qui presente e sta in silenzio, ma che ha inventato questo motivetto per un'altra trasmissione di Radio Sherwood, ossia si parla qui di Daniele. Allora, Bloverbooking è B-L-O-V di Verona, E e R di Roma. Benissimo. Poi tutta una parola con Booking, che è B-O-O-K-I-N-G. Continuiamo a ricevere delle email a radiochiocciola@radiosandona.it con non troviamo il vostro blog. Male, male, male. Esatto. Impegnatevi di più. bloverbooking.wordpress.com. Che cosa trovate nel blog? Allora, trovate le nostre puntate, questa che state sentendo, come tutte le puntate pregresse, in ascolto e in scaricamento, quindi in download. Poi trovate le interviste di cui vi parliamo in versione video, perché grazie all'aiuto di Alberto Bohem e i suoi potenti mezzi anche, e grazie a, diciamo, il grande ausilio della scuola Holden. Sì, grazie alla collaborazione che la scuola Holden di Torino ci ha dato la possibilità di iniziare, per la quale appunto ringraziamo. Noi ci prostriamo molto, ovviamente. Ma noi moltissimo. Praticamente abbiamo potuto realizzare queste interviste in video, e quindi troverete i filmati di ciascuna intervista di cui vi parliamo durante i nostri programmi radio, ma anche di molte altre che abbiamo realizzato nei giorni di Mantova e nelle quattro giornate di Pordenone. Appunto, trovate questi contenuti, trovate una serie di progetti che Overbooking porta avanti con il comune di Jesolo e con la provincia di Venezia, e vi anticipo che qualcosa di grande sta nascendo, come si è detto per il parto di Giuliano Ferrara, qualcosa esatto. Di grande sta nascendo, sta premendo per uscire, per l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E poi una serie di recensioni di autori emergenti e non che qui in redazione curiamo a cadenza periodica. Sì, volete mandarci anche del materiale, delle segnalazioni, dei video, eccetera, mandateceli, noi li visioneremo e li pubblicheremo sul blog, perché siamo molto contenti di questa nostra creatura e vorremmo che crescesse insieme a voi. Esatto. Ora andiamo a sentire l'intervista realizzata in collaborazione con Scuola Holden e Overbooking con Emanuele Trevi. Ora, speciale Pordenone Legge, abbiamo qui con noi Emanuele Trevi. Molto piacere, ciao, è un piacere averti qui con noi. Anche per me avervi qui con me. Allora, oggi tu a Pordenone parlerai del tuo ultimo libro in un contesto più ampio poi di discussione. È un libro un po' particolare perché si basa un po' sul procedimento del manoscritto ritrovato, possiamo dire così, che ha tra l'altro una tradizione molto lunga, da Manzoni nei Promessi Sposi e più avanti. E la prima cosa che volevo domandarti è proprio questa: come è stato utilizzare un meccanismo narrativo che ha una tradizione così lunga, adattandolo a quello che è praticamente un metaromanzo, se si può definire così, quindi è una narrazione contemporanea? Effettivamente bisogna dire che generalmente il procedimento funziona nella stessa maniera. Questa è una cosa che mi ha molto interessato proprio mentre lo scrivevo, perché poi anche si comincia un progetto e non si sa dove porta, dove si insomma, va, quindi a parare. Il divertimento sta anche nell'imparare qualche cosa. E io ingenuamente pensavo che fosse diverso, mettiamo Manzoni, no? Sì, inventa sì. Il ritrovamento di un manoscritto, Umberto Eco nel Nome della Rosa, certo, voglio dire, certo. Il manoscritto trovato a Saragozza, sono sì, sì. Le stesse persone che con più o meno verosimiglianza, credibilità, Manzoni addirittura proprio all'inizio inventa addirittura sì. La lingua seicentesca sì, dell'anonimo sì, per fare... E il fatto che il manoscritto fosse vero, perché in questo caso esatto, era un infatti. Manoscritto vero, era un ritrovamento vero e casuale, facesse determinasse come una biforcazione di possibilità. Invece è la stessa cosa, identica, cioè il meccanismo narrativo più artificiale e la verità coincidono C'è psicologicamente. stata questa coincidenza. Infatti, un'altra cosa che mi aveva particolarmente incuriosito è proprio questo: come è avvenuto questo ritrovamento? Diciamo, è un diario della tua compagna, Sì. scritto da bambina Sì. praticamente, e come è avvenuto questo ritrovamento? Beh, le case, come si sa, sono più ricche di tesori e misteri che l'Africa nera, soprattutto case abitate per molti anni, semplicemente perché ci si dimentica quello che Nei si trova traslochi viene dentro. fuori di Sì, tutto, un oppure po' così, quelle cose lì. quei mattine di domenica di ozio in cui dovrei dire si rimette a posto, ma io non metto mai a posto nulla, semplicemente. E ho trovato due cose, tra l'altro, entrambe sono presenti chiaramente il manoscritto che poi riproduco, cui immediatamente, appena l'ho letto, ho detto questo è l'oggetto di mi ha trovato, insomma. E dall'altro una copia di Piccole donne, questo capolavoro della letteratura che io non conoscevo e giustamente disprezzavo, Un magari po' da bambino, come perché letteratura minore, diciamo, ma invece prima di tutto no. da donne, Ah, perché ecco. era quella, il Cioè, motivo era quella misoginia era un infantile. mondo a parte, un mondo a Sì, parte. anche addirittura il film mi è sempre sembrato melenso, sia quello vecchio, con Liz Taylor, Certo. quello nuovo, insomma, tutto un immaginario che. E leggere questo libro, nella copia stessa con cui lo leggeva, la bambina che poi ha scritto il romanzo, il manoscritto che Certo. ritrovo, è stata un'esperienza. Tanto ho scoperto una grandissima capolavoro della letteratura, perché Piccole Sì. donne e Piccole donne crescono, perché questa è una Sì. cosa che c'è solo in Italia. Si dimentica sempre questa cosa appunto di piccole Sì, donne ma ho fatto crescono. editoriale, cioè quella è sempre la Esatto, seconda puntata, come la seconda esatto. puntata di Lost. Invece in Italia editorialmente gli Sì, ha avevamo una fortuna quasi. Sì, in realtà editoriale poi il ciclo diversa. dura quattro libri, ma Louisa May Alcott perse un po' l'ispirazione. I primi due sono. E poi la commozione è stata di seguire. Beh, io chiaramente potevo basarmi su un'informazione, qualcuno mi potrebbe dire, per me era importante Piccole donne, andare in libreria Certo. e comprarlo, ma è probabilmente l'effetto cui, perché è stato molto importante, io volevo immaginare la bambina che avesse scritto questo romanzo, in pratica, fare uno sforzo non di conoscenza ma di empatia. E leggere nella stessa sua copia, che poi sappiamo bene che valore magico può avere un libro, un album di disegni, un album di figurine per un bambino, no? Qualcosa di più la sua somma di contenuti, è stata l'altra esperienza del libro che cerco di descrivere, anche uno snodo cruciale della trama in cui appunto io riesco così a intravedere un po' questo fantasmino, proprio seguendo come seguire le tracce nella neve. Esatto, qualcosa nel suo manifestarsi, insomma. E tornando sempre sulla fiction e non fiction presente nel libro stesso attraverso questo ritrovamento, a me interessava molto il rapporto con la tua compagna, voglio dire, senza entrare nel personale, come lei ha preso questa tua decisione di utilizzare un suo prodotto e se è stata una decisione facile per lei, se ti ha seguito nella stesura del romanzo. Beh, lei è una persona, che anche Chiara Gamberale, è una persona che scrive romanzi Esatto, infatti e anche ha per una questo ha. sua, diciamo, attività letteraria successiva, diciamo, a questo quaderno. Per quello che riguarda la documentazione, io mi sono quasi esclusivamente basato su questi due oggetti e su una somiglianza che in realtà mia moglie da bambina aveva con una bambina orientale, perché avrei potuto fare un'indagine, no? Ma l'infanzia, Chiara è una persona giovane, ancora sulla trentina, ma comunque è lontana dalla sua infanzia. Quella cosa, diciamo, che se ne va. E non, per quello che mi interessava a me, che è la descrizione di una bambina minacciata dal mondo, una bambina che cresce in Svizzera, poi va a vivere nella periferia di Napoli al seguito di un padre che lavora in un inceneritore, che poi, per quanto ne sanno i protagonisti del racconto, sparisce completamente, sparisce perché non si sa più dov'è. Probabilmente il padre, appunto, che è un ingegnere di uno dei famosi inceneritori di spazzatura, ha detto qualcosa di troppo, ha pestato i piedi a qualche potente, o non si sa se sono un'intera famiglia sia stata uccisa, si è dovuta sparire per sicurezza, ma insomma, c'è una, la bambina si zona lascia d'ombra, solo insomma. Questo quaderno, ecco, questo può essere ascritto chiaramente al regno dell'invenzione, però è esattamente quello che volevo esprimere, il fatto che tutti i bambini che siamo stati sono dei desaparecidos, un giorno noi ci svegliamo e quel bambino se n'è andato. Se n'è si andato. Perde. Qualcosa. Allora, dal punto di vista proprio della conoscenza, il mio sforzo di empatia, che poi è stato giudicato da mia moglie, ogni tanto sorprendentemente preciso e ogni tanto assolutamente impreciso, però vale quanto il ricordo di una persona adulta ha del bambino che è stato. Indubbiamente io, se dovessi pensare alla mia infanzia, non avrei che dei segni molto... In questo senso la memoria, che è potente, mettiamo il caso di memoria più estremo, no? Quello di Proust. Sì, certo. No, Proust, il personaggio della recherche, inventa molto il bambino che sta, non diversamente da come io invento una bambina che vive nella periferia di Napoli, anche le famose scene, l'attesa del bacio della mamma, evidentemente ci sono dei puntelli autobiografici, sì, che... attraverso i quali, sopra i quali si costruisce un edificio narrativo, superiore, cioè. Ammesso che poi da scrittore e artista si sente la necessità di raccontare la propria infanzia, io mi sento più attratto da raccontare l'infanzia di qualcuno che amo, perché ci viene sempre da chiedere, no? È come un po' quando abbiamo un cane che amiamo molto, però l'abbiamo trovato adulto, magari giovanissimo, però già formato, no? Certo. E sempre ci chiediamo, io ho avuto molti cani in questa maniera, com'era da cucciolo? Che cosa allora, lo ha preceduto? È la stessa domanda che possiamo fare da me, com'ero io quando ero cucciolo? Allora, noi ricordiamo una costellazione di fatti, di eventi, spesso i dolori o le preoccupazioni o anche le gioie deformano questi eventi stessi. E a quel punto inizia, diciamo, una indagine che è di carattere narrativo, ma anche esatto. Se vado da uno psicanalista, la psicanalisi, diciamo, è devoluta al culto della verità, uno va a dire la verità, però nello stesso tempo questa verità è veicolata da una fiction, da un elemento di ipotesi perlomeno. Sì. Ok, una ultima domanda è questa, più all'Emanuele Trevi, critico, che allo scrittore. Vorrei che tu ci segnalassi i giovani sotto i 40 anni, i giovani narratori italiani sotto i 40 anni da tenere d'occhio, sui quali puntare perché hanno dimostrato nelle loro prime prove editoriali un particolare talento. Ma appunto, adesso risvegliando la parte di Emanuele Trevi critica e addormentando quella della scrittura, e presupponendo perché... che il critico sia meno infame dello scrittore, perché qui si richiama si entra una in parte un altro territorio che devo dire, vabbè, io chiaramente taccio su mia moglie che stimo molto, però non mi è permesso fuori concorso perché ho una se mi è lecito ho una grande aspettativa nei confronti del romanzo che adesso, che settembre 2010, è proprio in corso di stampa, di uscita, di Gilda Policastro, che sta per uscire per Fandango. Allora dice, ma questo è matto, un libro che non ha letto. Ciò che ha scritto, che ha fatto Gilda Policastro, che è una giovanissima critica molto particolare, originale, risentita, conduce sia in internet che sui giornali una battaglia, diciamo, quasi anacronistica per una scrittura che non si risolva nella prestazione narrativa, certo. Mi induce a essere curioso dopo, perché ricorda un po' me da giovane, cioè, dopo che hai criticato tanto, dopo che non ti è piaciuto niente, questo cosa... A questo proposito devo dire che se c'è un po' di spazio per l'intervista, oppure se è finita. No, no, possiamo anche. Devo dire che la preoccupazione massima che provano, diciamo, degli adulti come me, che ormai veleggiano verso la cinquantina, rispetto ai giovani, è l'idea che la letteratura, da quell'ampio ventaglio di possibilità che ha sempre rappresentato nella modernità, si restringe allo spazio e le aspirazioni allo spazio di una prestazione narrativa da cui eventualmente come massimo risultato, quasi come il paradiso dei musulmani, arrivi il film. Questo atteggiamento, che non è solo italiano, che purtroppo si diffonde dappertutto, sta rendendo la letteratura da avanguardia dei saperi umani, no? Certo. Un libro di Henry James valeva come una teoria di Einstein o di Freud, ha proprio all'unicino di coda. Guarda al mercato e alle possibilità del... Il più stupido e insignificante dei saperi umani è ciò che il romanzo ci suggerisce sia la letteratura. Il romanzo inteso appunto come questa forza di coazione di carattere commerciale fondata su... la trama e l'identificazione, è come se dopo Arrigo Sacchi si dicesse che il calcio è inseguire la palla. No, il calcio è tante cose, alcuni devono fare il contrario, alcuni devono muoversi senza la palla. Allora quello che anche le scuole di scrittura, le persone più adulte devono dire ai più giovani: no, guarda, ci sono dei meravigliosi poeti, ci sono dei saggisti come Cioran, sono la tradizione è ricchissima di cose che non sono delle prestazioni narrative. Tu non sei il barboncino che deve creare il suo giochetto in cui parli di persone della tua stessa età e lettori della tua stessa età. Noi stiamo entrando in un'epoca in cui la gente che legge è più stupida di quella che non legge, ed è probabilmente la prima volta nell'umanità che accade questa, un fenomeno così questa singolare. Cosa, sì, perché questo romanzo, questa cosa che appunto è scritta per il cinema, che deve avere la sua circolazione in base all'identificazione dei lettori, ha uno spazio, diciamo, nell'immaginario molto stretto. Il prodotto culturale di questa poderosa inversione della anche di tendenza. E quindi ecco, questo io penso, questa cosa qua. Poi quando leggo quelle cose sui giornali, già il titolo Under 40 mi irrita, perché seguendo appunto il calcio, l'under 40 significa tutti quelli che giocano. Quindi credo che sia una cosa stupida. Le Leopardi a 20 anni aveva già fatto quello che aveva fatto, Mozart, non si può mettere così sopra una cosa. È come uno che dice: c'ho la febbre sotto i 40, vabbè, ma tutti hanno la febbre sotto i 40, non ha senso. Purtroppo i giornali bisogna trovare non sono meno colpevoli delle case editrici nell' stupidire quest'arte, insomma, ma non solo in Italia. Ecco, questa è una cosa che io fino a poco tempo fa pensavo che fosse un fenomeno tipicamente italiano. Poi andando un po' in giro, incontrando, insomma, i giovani subiscono qualche cosa che ancora la mia generazione è cresciuta dell'idea che Cristi da Campo, Guido Ceronetti fossero dei grandi, non solamente chi riesce a trarre un film dal suo romanzo. Il Dan Brown commerciale o il Dan Brown un po' alto, no? Quello alla Frenzen, o la storie in cui ci si identifica. E questa che forse è la cosa più bovaristica, più già presa in giro un secolo e mezzo fa da Flaubert, diventa il proprio della letteratura, che diventa uno spazio assolutamente inabitabile. Perché mai dobbiamo identificarci in quello che leggiamo? Dovremmo rifiutarlo, dovremmo odiarlo, amarlo. Averci comunque un rapporto complesso. Sì, ecco, questa la... E quindi questa mi sembra la speranza, è che quella che si esca da questa secca, insomma. Ok. Va bene, noi ringraziamo Emanuele Trevi. Io ringrazio un piacere. Saluto avervi. La scuola Holden. Sì, scuola Holden. Ogni tanto insegnato. Ah, ottimo, grazie. È un piacere, rivederci lì. Va bene. Benissimo. E questa era la nostra intervista realizzata da Ferdinando e Matteo con il contributo tecnico di Alberto Bohème con Emanuele Trevi. che ci ha raccontato un po' i contenuti del libro, Il libro della gioia perpetua, la sua opera più recente edita da Rizzoli, Esattamente così. e che è il libro che ci tiene compagnia questa sera. Allora, dopo questi 17 Sì, io direi minuti che abbiamo intensi. bisogno di rifarci un po' la bocca con un po' di musica, di stiracchiarci un po', che dici? Esatto, allora chiediamo aiuto ancora una volta a Daniele e andiamo a sentire Ryan Adams sui 102.2 di RSD. She don't even ask. RSD 102.2 Overbooking che vi tiene compagnia in questa serata sandonatese. Siamo sempre qui in studio con Ferdinando, presentando il libro di Emanuele Trevi che si intitola Il libro della gioia perpetua. Allora, io vi ricordo come sempre che potete intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 o inviandoci un fax allo 0421 560994. Non vi finirò mai di ricordare la nostra mail radio@radiosandona.it e il nostro blog di supporto del quale abbiamo già parlato estensivamente a inizio puntata, quindi non vi tedierò. www.bloverbooking.wordpress.com. Come si diceva, il libro della gioia perpetua, ultima fatica di Emanuele Trevi, edito da Rizzoli. Bisogna dire, abbiamo parlato un po' della trama, che è, diciamo, sta a metà tra romanzo e autobiografia, perché il libro prende le mosse da quello che è il libro di Clara Ricchi, che è un quaderno diario tenuto da Chiara Gamberale, moglie attuale di Emanuele Trevi, diario quaderno scritto da Chiara Gamberale attorno agli 8 anni. Sì, e il libro di Trevi subito all'uscita venne considerato da Rizzoli un candidato ideale per il premio Strega di quest'anno, e poi la vicenda editoriale, come ben sappiamo, andò diversamente, perché Rizzoli poi ha scelto come candidato forte un unico libro su cui puntare tutte le sue energie, tutte le sue fish da ufficio stampa, e quindi purtroppo la scelta non è caduta come i pettegolezzi dell'ambiente letterario suggerivano all'inizio sul libro della gioia perpetua, bensì su Acciaio di Silvia Vallone, che poi è arrivata proprio quasi a vincere, ma purtroppo non ce l'ha fatta, la vittoria è sfumata per pochissimo, perché ha vinto ancora una volta, bisogna dire, anche se insomma onore al merito al gruppo Mondadori, che tra Mondadori e Einaudi è arrivato alla quarta vittoria consecutiva. L'anno scorso aveva vinto Scarpa, e quindi insomma il libro della gioia perpetua ha comunque fino all'ultimo candidato forte per Rizzoli, quindi a maggior ragione questo testimonia la sua importanza. Il libro della gioia perpetua candidato fino all'ultimo anche per il contenuto che secondo me spiazza in un certo modo e quindi colpisce il lettore. Perché? Perché molto probabilmente Trevi in questo romanzo diciamo mischia il romanzare con il saggismo. Molto probabilmente questa è una delle cose che più si nota leggendolo. E beh, bisogna dire che per Trevi questo non è per il Trevi saggista questa non è la prima prova come romanziere. Infatti già nel 2003, sempre per Einaudi, aveva pubblicato I cani del nulla, una storia vera, che anche questo è un bel libro e sentiamo di consigliarvelo. Sì, e lui, diciamo, la sua attività principale è quella di critico letterario, e questo, come dicevamo prima, si sente un po' nella narrazione. E questa fusione di mestieri, diciamo, è una cosa che ci fa abbastanza riflettere, perché gli scrittori fanno i saggisti fanno i giornalisti, rimanendo sempre in ambito letterario, non sforiamo, però sembra, no, che ci sia un continuo mescolamento di mestieri, di punti di vista. Non so, penso per esempio a Baricco, che scrive Next, piccolo saggio sulla mutazione, sulla globalizzazione, oppure I barbari sulla globalizzazione di nuovo, insomma sui nuovi personaggi che appunto lui definisce barbari nella globalizzazione. E senza essere eccessivamente autoreferenziali, un libro di cui ci siamo occupati qualche settimana fa è Il sentiero degli dèi di Wu Ming 2, esatto, che sul tema che parte da un tema sociale specifico, che è quello dell'alta velocità che collegherà Bologna a Firenze, per partire con un intreccio quasi da novella, raccontando dei cinque episodi che stanno a metà tra l'autobiografico e diciamo il romanzare, e però partendo da uno sfondo sociale e socio-economico ben definito, insomma, sì, quindi un po' un romanzo di denuncia in qualche modo. Sì, assolutamente, questo nella letteratura italiana contemporanea sembra essere un filone sempre più ricco e un po' quello che in un altro senso è anche il New Italian Epic, che almeno è stato definito così visto che citavi i Wuming, dagli stessi Wuming, cioè quei libri che mettono insieme letteratura e saggio, come per esempio Gomorra. Loro hanno definito questo filone appunto del New Italian Epic, dove delle narrazioni forti come quella di Gomorra, epiche loro dicono, si intrattengono sia parti di narrativa che di saggio giornalistico, oppure appunto di reportage giornalistico, oppure di saggio. Sono quasi degli oggetti, dicono gli stessi Wuming, quasi degli oggetti non identificati, questi libri. E anche il libro La gioia perpetua, per altri versi, ma forse rientra è riconducibile. Allora, io mi prostro sempre dopo queste tue acute disamine, e quindi visto che siamo al termine di questa puntata, purtroppo ringrazio Ferdinando per essere stato con noi anche questa sera e avermi sopportato. Ringrazio io te, ringrazio tutti. E beh, ringraziamo come sempre Matteo, Alice, Giulia e Daniele che ci aiutano ampiamente a vario titolo nella conduzione del programma e per portare avanti tutto quello che ruota intorno a Overbooking e a Radio Sandona 102.2. Vi rimando alla settimana prossima, non prima di avervi salutato e ringraziato per essere stati con noi, con Fake Empire, una canzone secondo me bellissima. A te piace? Non l'ho mai ascoltata e sarò contento di ascoltarla adesso per la prima volta. Bene, andiamo a sentire Fake Empire. Arrivederci e rimanete sintonizzati sui 102.2 di RSD. Staying super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake.